the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Chi avesse l'opportunità di entrare in casa mia avrebbe subito un primo impatto. Capisce di essere entrato nella casa di una persona che ama i Beatles. Magari questa cosa direttamente non l'avete capita, magari indirettamente può essere stata colta. Ecco, questo amore per i Beatles cade in un progetto che si chiama proprio Love, che ai Beatles viene dedicato. Il caro e vecchio, ma proprio tanto vecchio, George Martin ha voluto mettere le mani a un sacco di loro canzoni con l'aiuto del figlio Gilles, che sicuramente non ha lo stesso talento che aveva il padre ai tempi dell'età che ora si ritrova, e niente, è venuto fuori questo, io mi permetto di dirlo, mezzo pasticcio. Non mi piace proprio. Comunque ho voluto farvelo ascoltare e sicuramente darò spazio a questo disco anche durante il giorno, durante le pillole di Eclettica, perché lì mi sono accorto dai mail che ricevo, gli ascoltatori sono tendenzialmente diversi rispetto a quelli che ascoltano l'Eclettica serale. Questo era un messaggio che volevo passare. Esattamente contrario invece è il messaggio che vi passo a proposito di Jacob's Stories. Bellissimo, bellissimo questo disco dal titolo Fledgling, che esce per l'etichetta Gravity Deep, dal quale per ora stiamo ascoltandoci Unfinished Idea Number 209, che è il brano che ha aperto Eclettica di quest'oggi, subito dopo l'incipit di Stefano Benni. Stefano Benni, che questa settimana ho scelto soprattutto per il romanzo che vi ho appena letto. Poi un romanzo, magari non, sì, chiamiamolo romanzo, ok. Bar Sport, che quest'anno festeggia i 30 anni dalla pubblicazione. Fra l'altro, a inizio dicembre, attorno al 9, al 10 di dicembre, ci saranno

Ho deciso di confermare la fiducia al film di settimana scorsa, ve ne sarete forse accorti dalle due voci. Infatti continuiamo anche questa settimana, perché così mi piace, con Lo chiamavano Trinità. E continuiamo anche a scoprire le nuove band che crescono. Per esempio, da settimana scorsa abbiamo messo sotto i nostri riflettori la band genovese dei Banshee, e quest'oggi un'altra band, in questo caso milanese, The Pink Rays Flirts, è il titolo del mini che io ho a disposizione, dal quale ho estratto la traccia numero 2, Abstract Love. Certi modelli newyorkesi magari possono essere molto evidenti, ma è giusto così. Quando si inizia a far musica, poi la personalità arriva con il tempo, sempre che ci siano le qualità, sempre che ci siano i numeri, e solo con il tempo potremmo capire se questi effettivamente ci sono. Per oggi ce li siamo ascoltati così, in eclettica, dove vi avevo promesso di mandarvi anche a vedere gratis una serie di concerti. Giulio@radiorockfm.com è il modo per vincere questi biglietti. Per esempio, proseguiamo con Ramona Cordova, già alcuni sono andati in questi giorni, ce ne saranno altri che potranno andare il 21 a Ravenna, al Bronson, o il 22 a Bologna, allo Zoo Caffè. Poi invece Soda Stream che suoneranno allo Zero Music Club di Alzano San Paolo Bergamo il 24 di questo mese. E poi c'è anche il tour d'addio. Il tour d'addio di cui tanto vi ho parlato, degli Arab Strap, e mi sembrava logico mandarvi anche a vedere gratuitamente alcune delle loro date: quella del 22 a Rainbow, quella del 24 all'Estragon di Bologna, quella del 25 all'Auditorium Flog di Firenze e quella del 26 all'Hiroshima di Torino. E proprio a proposito di band che siete andati negli anni a vedere gratuitamente grazie ad Eclettica, ce ne ascoltiamo una che è uscita da qualche mese con... due mesi, sì, con un nuovo EP. Sono gli inglesi Telescopes, Hungry Audio Tapes è il titolo di questo EP, Another Sky è invece il titolo del brano. una manciata di parole, quasi uno scioglilingua. Easy Stars, All Stars, sotto una rutilante rumba di bassi, misto Giamaica, misto rock, misto psichedelia. Molto apprezzato The Dark Side of the Moon, forse più di Radio Dread. Si sa, quando un disco è immortale ci si avventura con circospezione. E una volta entrati nei sentieri della storia non c'è via d'uscita, no way out. A proprio rischio e pericolo. Qui il pericolo è solo quello di immergere l'ascoltatore in una soffice e vaporosa nuvola di marijuana mentre sgocciola il respiro. Breathe in the air. Grazie Giù. Continua così. Baci, Cla. Si chiude con Radio Dread. Come on, Polly. A restless man, he talks in mass. He buzzes like a fridge, he's like a digital radio. Come on, prima parte.